Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! Da gennaio a giugno del 1855. Si amplia la coalizione antirussa e il Regno di Sardegna entra in guerra. E Torino dibatte della legge sui conventi. Vittorio Emanuele tenta la mediazione. Misteriosa rapina tra Londra e la Francia. Spariscono da un treno 90 chili d'oro. Anche Parigi si inchina al maestro. I Vespri siciliani di Verdi trionfano all'Opéra. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento. È una fase convulsa, quella attraversata dal Regno di Sardegna. Il re Vittorio Emanuele II ha subito due dolorosissimi lutti. Nel giro di un mese sono morte la regina madre, Maria Teresa di pleurite, e la moglie di Vittorio Emanuele, la regina Maria Teresa di tifo. 180 giorni di lutto a corte, ma gli affari esteri e interni assorbono tutta l'attenzione del sovrano. Dal 4 marzo il Piemonte è in guerra contro la Russia e il 26 aprile un contingente partito dalla Spezia per la Crimea al comando di Alfonso la Marmora. La decisione di accettare la proposta di Francia e Inghilterra è maturata a gennaio in giorni caldissimi per il governo Cavour. Il conte ha dovuto ingoiare un'alleanza senza contropartite per non restare fuori dal gioco diplomatico, ma anche per evitare che il re lo sostituisse con il reazionario Thaon di Revel, disponibile all'intervento. In più il conte di Cavour e il suo ministro della giustizia Rattazzi hanno dovuto gestire la grana della legge sui conventi. Il re, dopo la morte di madre, moglie e fratello, in pochi giorni ha temuto l'ira divina per la legge sulla soppressione degli ordini religiosi e sull'esproprio delle loro proprietà, e l'ha avversata. La legge è lontana dal principio libera chiesa in libero stato enunciato da Cavour, ma le rendite dei beni confiscati sono pari a 17 milioni annui e il risparmio per le congrue al clero è di 1 milione. Alla Camera è passata con una maggioranza schiacciante, ma al Senato, di fronte alla proposta del senatore vescovo Calabiana di raccogliere i soldi per le congrue, Cavour si è dovuto dimettere. Il re ha cercato qualcuno per sostituirlo, ma il 4 maggio si è arreso e lo ha richiamato. Il Senato ha emendato un poco la legge, che è ripassata anche alla Camera. A Roma il pontefice è pronto alla scomunica. Paolo Piacenza, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24. I giornali inglesi l'hanno chiamata Great Gold Robbery, ossia la grande rapina d'oro. La polizia non sa che pesci pigliare. Un carico con 91 chili del prezioso metallo è stato spedito dalla London Bridge Station a Parigi. Quando è arrivato nella capitale francese sono state aperte le casse e si è scoperto che durante il viaggio l'oro è stato sostituito con del piombo. Ci sono stati centinaia di arresti, ma nessuno di questi ha portato ad una conclusione dell'indagine. I sospetti sembrano comunque concentrarsi sul personale ferroviario della cittadina inglese di Folkestone. Anche Parigi, in pieno fermento per l'esposizione universale, si inchina a Giuseppe Verdi. È andata in scena all'Opera di Parigi, tra gli applausi scroscianti del pubblico, la nuova opera del maestro, nella quale molti leggono un'esplicita ispirazione alle vicende italiane. Si chiama I Vespri Siciliani e narra della rivolta del popolo siciliano appunto agli Angiò nel XIII secolo. Il libretto è in francese, ma ne esiste ovviamente anche una traduzione italiana. Sembra che ci si prepari ad una rappresentazione a Milano, ma il maestro sta preparando, per questioni di censura, una trasposizione della vicenda, spostandola in Portogallo. Ed è tutto anche per questa edizione del Gazzettino del Risorgimento. Il nostro quotidiano è su www.radio24.it. Scriveteci sulla nostra pagina Facebook o a gazzettino@radio24.it e visitate il blog da Simone Spezia, che ha condotto questa edizione e l'ha curata insieme a Paolo Piacenza. Una buona giornata.